Ehi. Ehi, ehi. No. Sì. Ok. Bella. G. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Oggi io e Vittoria. Vittoria è qua per presentarmi, però io presento prima Vittoria, perché ho bevuto due caffè, quindi oggi sono matto. Il microfono più vicino, perché sennò la voce va e viene. Cappare. Oggi sono qui per presentare il mio libro, ma Vittoria, presentami tu. Ciao ragazzi, il ragazzo che si aggredisce anche a me alla destra del padre non ha bisogno di introduzioni, specialmente non in questo posto, comunque a Milano in generale. È un fotografo, classe 1997, che si occupa di culture underground e in particolare da 2 anni a questa parte, assieme in un lungo viaggio di chilometraggio incontabile, incalcolabile, e spazi occupati, e distro DIY e amici per sempre, abbiamo provato a documentare la scena screamo italiana post-covid 2022-2024 nel suo primo sorprendente libro d'esordio Caos is Us. Abbiamo, grazie, Luca Secchi aka Onibaku. Grazie. Con me a parlare Vittoria Brandoni, giornalista, amica fraterna, nonché cantante della sua prima band d'esordio Rescue Cat. Un applauso anche a Vittoria, perché no? Allora, facci uno spiegone iniziale, come nasci in generale come fotografo e come entri a pieppari nel mondo della fotografia. Dunque, io nasco come fotografo grazie ai porno, perché io ero assistente alla regia per un documentario che avevano fatto sulla malavita a Milano, e prima, negli anni 80, se non esistevano i fotografi, non esistevano le foto, quindi non esistevano le cose. E molti fotografi che abbiamo intervistato si occupavano anche di altre cose, e tra questi c'era un fotografo erotico che mi ha insegnato a fare le foto con i flash, si chiama Luca Matarazzo, e mi ha proprio iniziato al mondo della fotografia flashata, perché il flash nel mondo della fotografia è anche un segno stilistico molto distintivo, perché le foto, se le fai senza flash, c'è una buona probabilità che non ti notino. Fare le foto col flash vuol dire anche dire: raga, ci sono qua anch'io. Vuol dire partecipare, secondo me, attivamente alla scena. E quindi io nel mondo della fotografia entro proprio col flash. Molti fotografi il flash lo odiano, perché se non lo si sa usare fa uscire foto veramente del cazzo. Però dopo vari trial and error, dato che questa sera siamo internazionali, perché appunto band anglosassoni, anglofone, americane, e il flash nella mia fotografia è diventato la parte preponderante. Tutte le foto che vedete lì al mio banchetto, nel libro, il libro è sfogliabile al banchetto se volete, sono fatte col flash, quindi proprio flash parte integrantissima. Quindi le tue influenze principali stilistiche, artistiche nella fotografia, quali sono e in che modo si legano al tipo di musica che tu scatti? Come sei bello. Anche tu. diciamo che a me piace tutta quella scuola. Ora dico alcuni nomi, tipo Martin Parr, c'è la mostra qui a Milano, se siete appassionati di fotografia andate a vederla. Bruce Gilden, tutti i fotografi che hanno fatto del flash uno strumento per rappresentare i lati più scabrosi e grotteschi della realtà. Io nel mio piccolo, piccolissimo, ho applicato questo approccio qua che possiamo chiamare in your face, proprio da andare a un centimetro dalle persone e scattargli le foto veramente con la faccia gigante che copre tutto il frame, alla fotografia dei concerti, in particolare alla fotografia dei concerti punk. Quindi diciamo che tutta la wave di persone che ti fanno le foto e che nel fare le foto si rendono insopportabili mi hanno veramente ispirato. Ok, quindi quando tu hai scattato le prime volte qui a Milano, che poi, se non erro, come narra la novella, è stata a Cinisello, durante, dimmi la line-up. Line-up, allora, quella volta lì erano Meo, One Dying Wish, che forse, esatto, Blame Quindi quando tu hai iniziato lì ed è stato un po' il tuo battesimo del fuoco, perché comunque una cosa di te è che te non sapevi niente, le scrimo. Self, Laura, che salutiamo. Actually. Che salutiamo. Una cosa di te che ripeti spesso quando siamo in viaggi particolarmente sfiancanti, quando sei al volante urlando che sono le 4 di notte e dobbiamo andare a lavoro alle 7, a me lo scrimo manco mi piaceva, a me Corretto. manco mannava. Tu in che modo poi era voluto il modo in cui hai preso poi dallo stile di scatto che è molto popolare poi nella fotografia hardcore americana? Com'è nato poi da quel primo concerto il modus operandi con il quale ti butti dentro e hai questo stile in your face? Se il libro che c'è e le foto che ci sono perché le persone che popolano questa scena mi hanno accolto a braccia apertissime. Per farla molto breve, secondo me, dopo il Covid c'è stata una grande equalizzazione dal punto di vista delle persone, della scena, degli artisti e degli spazi. Alcuni sono rimasti, alcuni sono cambiati. Le persone, secondo me, avevano una grande voglia di vedere quello di cui avevano discusso su internet per tipo 3 anni, perché durante il Covid si passa una marea di tempo davanti al computer, c'è cioè chi conosce i Rain e la Quiete, e ricominciano i primi concerti e uno vuole fare come nelle foto che ha visto, no? Quindi io penso che le persone mi abbiano proprio accolto loro, cioè se non fosse stato per le persone, se non fosse stato per Luca Radura che dopo i primi concerti era lì nei DM di Instagram che mi diceva: "Oh, ma le foto, le foto, le foto, le foto." Probabilmente non sarei diventato appunto, cioè, possiamo dire, il fotografo di questa roba, di questa grande wave dell'underground italiano che è appunto una delle cose che mi ha dato più soddisfazione in vita mia, penso, senza. Ok, quindi poi a un certo punto, quando in realtà anche relativamente presto, hai capito che avevi imbottigliato una sorta di fulmine a ciel sereno e hai detto che okay, abbiamo qualcosa da documentare, che è proprio in qualche maniera un bisogno che avevi di immortalare con gli scatti. Quindi, cioè, in quale momento esatto hai pensato, ok, ho bisogno di farci un libro, ho bisogno che questo libro abbia uno scopo? Spiegaci un po' come si fa un libro da zero, nel senso autoprodotto, autogestito, smazzando ogni tipo di sbatti organizzativo e dalla stampa alla scelta delle foto, alle grafiche, alla vendita e alla distribuzione, lo scopo e il processo di Caos Isas. Allora, fare un libro è veramente complicato. Io non avevo mai fatto nulla di autoprodotto. Infatti, il libro dovrebbe esistere adesso, ma è in ritardo perché le persone che mi hanno aiutato a stamparlo, che è appunto Prespresso, una stamperia di Milano gestita da persone incredibilmente carine e appunto, che frequentano anche loro la scena, che mi hanno aiutato veramente senza voler nulla in cambio. Sono in ritardo per degli sbatti loro. Autoprodurre un libro vuol dire che tu, quando una cosa non va come vuoi, accanni, perché 9 su 10 le persone che ti stanno aiutando lo stanno facendo gratis perché sono gasate e tu, anche quando loro sono in ritardo, devi ringraziarle perché lo fanno perché sono gasatissime. E a me dell'underground piace essenzialmente questo. Nell'underground trovi tutti i talenti del mondo, architetti, fotografi, grafici, chef vegani, tatuatori, veramente chiunque. Tutto E tranne un idraulico, un no, elettricista. l'elettricista ce l'abbiamo. Ciao Scusate. belle. Spesso è molto bello perché uniti da questa cosa si riescano a creare cose più grandi. Io per fare il libro mi hanno aiutato per esempio Vittorio Donà, Restless Hours, che è grafico, Martina, appunto, che è un'amica di Jacopo Lietti, quindi stampatori, quindi persone che attivamente frequentano questa scena. La genesi del libro è nata da praticamente dopo il primo Italian Party nel 2020 e 22, quando ho capito la magnitudo di questa cosa. Cosa vuol dire la musica per le persone? Cioè, io non avevo mai capito che la musica per le persone significasse veramente tanto. Cioè, a me la musica piace, non è che sono un mostro, però tipo a Umbertide, in quel caldissimo 29 luglio del 2022, io ho visto veramente 500 persone, i Fine Before You Came che salgono sul palco, che sembrano i Dire Straits, cioè veramente suonano il disastro. Ma anche gli Oine l'hanno dopo, c'ho una cicatrice qua, perché le persone sono andate tutte avanti e mi è entrato tutto il palco nella carne. Cioè, la musica per le persone significa delle cose veramente poco difficili da definire, se non nel momento in cui tu le vedi, no? Quindi il mio medium, la fotografia, è un medium in cui si vede. La fotografia comunica prima della la scrittura, perché una foto arriva prima le parole, secondo me. Quale modo migliore era per comunicare quello che io ho visto in mezzo alle persone, veramente in mezzo al sudore, a tutto, se non facendo un libro? Il libro ha, si può dire, lo scopo, la velleità di descrivere una cosa che sta già succedendo ora. Per farla molto breve, secondo me i libri prima sul punk avevano tutti la grande, si può dire, il grande peccato di uscire, per esempio, a 30 anni dalla fine dei Nabat, a 30 anni dalla fine dei Negazione, e quindi c'era sempre quel velo di nostalgia, appunto. Il mio libro invece vuole essere un libro sul presente, che spesso parla di persone che poi sono lì al concerto. Giacomo Parodi, per esempio, è nel libro, chitarrista di due band importantissime, come urlano giustamente una merda, perché lo sappiamo, però, capito, cioè il fatto che le persone che siano nel libro, Giacomo, il fatto che le persone che siano nel libro, tipo tu, siano anche qua davanti adesso a sentir parlare del libro, è molto importante. Dovresti fumarti meno canne, forse. Che dici, eh? Ci beviamo un caffettino? Quindi, raga, il libro è dedicato essenzialmente a voi, perché il caos siamo noi. Dedicato e voi. A noi. Noi. Allora, Chaos is me diventa Chaos is us. Noi, oggettivamente. Noi. Ci racconti, per favore, ce l'abbiamo qua il libro? Te lo sei portato? Il libro è sul tavolo. Giacomino, scusa. Già che ti trovi? Fai la valletta, così. Che è, tra l'altro, la capitale di Facciamo Malta. Facciamo un piccolo gioco aperitivo. Ora ci apri, una foto a caso dal libro. Esatto. E ci racconti aneddoto. Un applauso a Giacomo Parodi. Che bravo. Veramente. Senza di lui non esisterebbe la marijuana. Facciamo un gioco. Vai, scegli una pagina. Vai, scegli una pagina. Dimmi quando fermarci. Stop. No, ma che. Stop. Là. Dunque. Lore. Qui siamo al CIC. Qualcuno potrebbe conoscerlo qui. Chi lo sa? Non so se qualcuno di voi è mai stato al Centro Internazionale di Quartiere a Porto di Mare. Un luogo che è tanto bello quanto irraggiungibile. E... Chi è? E, qua era a Piume Pesanti, che potrebbe essere un festival organizzato dallo stesso collettivo che ha organizzato questa serata, Ali di Cera. Un applauso ad Ali di Cera. Yeah. Qua era durante il set dei Joliet, probabilmente uno dei concerti più belli a cui io sia mai stato. Nonostante quel concerto lì fosse stato pazzo da alcuni punti di vista, vedere suonare delle leggende come i Joliet a veramente una spanna di distanza è stato irripetibile. Qui toccano tutti Pondering the Bass, come possiamo dire. C'è anche un polsino degli Slipknot, che salutiamo. E... un momento comunitario, veramente un momento comunitario. Quindi questa, diciamo, che è la pagina delle cose verticali, cose perché verticali. Poi ci sta anche un lavoro di giusta posizione, esatto, nella composizione e nel sequencing di questo libro. Quindi sì, qual è l'altra verticalizzazione? L'altra verticalizzazione è Antitrasformata, Nico, che qui è appesa al release party degli Oine, una band di Milano, di Cinisello, che qualcuno di voi potrebbe conoscere. E, release party al Boccaccio, anche qua veramente non ho mai avuto così tanta paura per la mia vita come in quel momento. Momento, tra l'altro, dove una cosa che mi piace molto, che le foto, più le guardi, più noti delle cose. Qua c'è il pubblico, che c'è anche una persona che sembra Jetto qui, chissà se è Jetto, che questo... appunto che è qua ad ammirare questa grande opera di fisico umano. E niente, essenzialmente questo libro adesso qui lo dico, dovrebbe essere già stampato, non è già stampato. Ieri ho telefonato a Martina di Press Press che mi ha detto che entro il 10 giugno verrà stampato, quindi se avete preordinato il libro... Ti posso chiedere una cosa? Dimmi. Dopo, se avete preordinato il libro 10 giugno, data X, dovrebbe, io dovrei averlo e dovrei incominciare a spedirlo e venderlo, ma io voglio dire una roba. È bellissimo poter presentare questo libro, che alla fine, vabbè, sono io, ad una serata con i Sacro Fuoco, ex One Dime Wish, che quella famosa sera a Cinisello sono stati tipo una delle prime band che abbia mai fotografato in vita mia. Quindi è molto bello poter chiudere un cerchio, cioè è veramente importante. Band come i Put Purana, i Radura, merde, veramente, sono molto importanti, non, cioè, anche per la musica, che per carità è bellissima, ma soprattutto per quello che hanno fatto a livello di scena. Cioè, io ci sono concerti dei Put Purana 27 di luglio, 30 di luglio, Rock and Roll, 20 paganti, un disastro umano... Sono cose che contano, sono cose che io mi ricorderò per sempre, e con questo libro ho l'ambizione di farle ricordare anche a voi. Quindi, non penso proprio. Domanda finale, secondo me, vabbè, vado un po' off script perché è una cosa che mi interessa a me. So di per certo che c'è qualcuno qua dentro che fa o gli piacerebbe iniziare a fare le foto in sti ambiti, ma so anche che la questione delle foto... a ste serate, a questo tipo di eventi, in questo tipo di spazi, può essere sicuramente un argomento delicato. Tu, a un beginner, una persona che è interessata a farlo ma magari non sa bene a chi riferirsi, come iniziare, che gear portare, che consigli daresti, anche dolorosi, anche facendogli il culo? Allora, gli consiglio di essere resistente al dolore, che è una cosa che consiglio a tutti, perché queste foto qua, cioè, nel senso, la prima foto sono arti incrociati perché io ero in mezzo a questo groviglio umano, no? E nei grovigli umani spesso si prendono un sacco di botte. Quindi veramente, secondo me, se vuoi fare delle cose che nessuno ha mai fatto, ti devi mettere in situazioni in cui nessuno si è mai messo. Io ho scelto di mettermi con la macchina fotografica in mezzo al pogo, e lo consiglio di fare anche agli altri, perché lì poi escono delle cose molto interessanti che non potrebbero uscire in nessun'altra maniera. La prima regola comunque è il rispetto, raga, perché ci sono spazi dove le foto giustamente non si possono fare, quindi chiedete sempre alla venue, e se vi dicono no, è no, perché è giusto così. Però 9 volte su 10 le persone sono molto aperte e disponibili, quindi se volete farlo, fatelo, provateci, perché... Io la prima volta che ho fatto le foto non conoscevo nessuno se non Giacomo e Pietro, fuori Piotr, e le persone mi hanno accolto a braccia aperte e mi hanno cambiato la vita. Cioè, la mia vita adesso dipende dalle scelte che ho fatto in quel momento, no? E sono molto felice, perché non vi vedo, perché la luce, come ho chiesto, è giustamente molto forte. Però se voi siete qui e se io sono qui, secondo me è anche per quelle foto che ho fatto 2 anni fa allo spazio 20092. Quindi... Dove compriamo il libro? Il libro si compra su internet. Non so se qualcuno di voi conosce internet. Oppure quando io faccio i banchetti, quindi probabilmente una volta al mese in qualche venue sgangherata e puzzolente, ma piena di persone godibilissime. E se volete comprarlo su Instagram, poi io con queste piccole mani ve lo darò o di persona o ve lo spedirò. Quindi io adesso metto un punto a questa intervista, perché secondo me abbiamo parlato anche troppo. Il libro poi lo lascio lì, se volete spizzarvelo, spizzatevelo. Vittoria, vuoi dire qualcosa? Grazie Luca, grazie Sacro Fuoco, grazie Massa, grazie Pelle. E raga, up the scrums, ci leviamo. E mo, so botte.